Sembrerebbe che nelle illusioni ottiche debbano cascarci proprio tutti. Sono famose quelle di Müller-Lier, in cui due frecce lunghe perfettamente uguali sono poste in modo che appaiano irrimediabilmente una più lunga dell'altra. Sono famose anche quelle di Hering, in cui un fascio di linee oblique sottostanti a due rette assolutamente dritte, in virtù di quale chissà quale meccanismo cerebrale le fa apparire ricurve. Non sono a conoscenza di illusioni ottiche che riescano invece a far apparire dritto ciò che è invece storto, ma immagino che ci siano. Nelle illusioni ottiche, a quanto sembra, non lo sapevo, ma mi sono informato, ci cascano perfino gli animali, o almeno certi animali. Anni fa sono stati fatti esperimenti con pesci e piccioni e, nonostante le evidenti difficoltà, almeno evidenti per me, difficoltà insite nella conduzione dell'esperimento, perché non deve essere facile capire quando un pesce è muto, come tradizionalmente è, ha un'illusione ottica, alcuni scienziati ne hanno concluso che questi animali sono vittima anch'essi dell'illusione delle frecce di Müller-Lier. Ma ecco, Tutti, proprio tutti, invece non ci cascano, non è vero. Nel meccanismo cerebrale ingannatore, infatti, è coinvolta la modalità percettiva degli angoli. E se ad un panorama esperienziale pieno zeppo di angoli l'intera civiltà occidentale è abituatissima, beh, c'è anche chi degli angoli ne fa volentieri a meno. Gli Zulu dell'Africa vivono nel circolare, in capanne rotondeggianti, con porte rotondeggianti, fra artefatti rotondeggianti, arando perfino anche i propri campi con solchi curvilinei. E a quanto pare gli Zulu dell'Africa, nell'illusione ottica delle frecce, non ci cascano. Un'illusione è sempre il risultato dell'interazione di almeno due elementi percettivi, uno dei quali, per la particolare disposizione in cui si trova, influisce sull'altro. Giorni or sono incontro un'amica. Amica mia, ragazza intelligente e carina, pozzo di virtù nonostante la carrettata di rossetto che ama spalmarsi sulle labbra, ragazza di cui per le ovvie ragioni che correlano il desiderio sessuale a certi segmenti corporei, ho sempre ammirato e rimirato le gambe. Me le ricordavo al mare, in costume da bagno, due gambe perfette e asciutte, né troppo magre né con un grammo fuori posto, dritte ma dritte come fusi. Lei arriva con un caro amico comune e si decide che prima della cena programmata c'è il tempo per fare quattro passi e quattro chiacchiere. Alla prima occasione, diciamo che me la faccio passare davanti e me la guardo da dietro. Avrebbe dovuto costituire il previsto piacevole spettacolo, e invece no. Lei che è scrupolosamente attenta ai miei maneggi, e mi chiede: come trovi le gambe? Beh, faccio io, non sapevo che ti fosse venuto un accentuato valgismo. Peccato, perché le avevi belle. Come mai me lo chiedi? Perché me lo ha già detto lui, e si rivolge all'amico. Ma io non ho nessun valgismo, ho le gambe dritte. Sono questi maledetti jeans che, non so perché, mi fanno le gambe storte. Ma va, fatti guardare un po' meglio. Allora io la guardo meglio. No, niente da fare, ti sono proprio venute le gambe storte. Non so se succede, guarda, ma questa volta è successo a te. E l'amico confermava, e il fatto che il giudizio venisse ribadito non rallegrava di certo la nostra cara fanciulla, cui probabilmente l'affabile lealtà degli amici e un paio di jeans dal micidiale potere hanno guastato la serata. Compiere la verifica appropriata, mostrare anche ai più riottosi come si trattasse del frutto di una percezione distorta, togliendo i jeans incriminati lì seduta stante, non sarebbe parso opportuno in alcun galateo, e in questi casi non si può che subire. L'unica eventualità fortunata forse sarebbe consistita nell'incontro con lo Zulu di turno. ovvero con quell'ipotetico esemplare di una popolazione scevra della cultura dei jeans, libera dai condizionamenti prima ideologici e poi percettivi che questo paio di pantaloni ha finito con il convalidare, lo Zulu che al passaggio della nostra amica avesse rilasciato un bel fischio di ammirazione, un'eventualità questa che a ben considerare questo nostro contesto dove il tessuto jeans è usato all'uso ovunque era piuttosto improbabile. Forse con la macchina del tempo, andando al passeggio sotto i portici di una Milano degli anni 50, ecco, quando di jeans non se ne sapeva ancora nulla, forse allora i giovanotti di allora, girandosi al passaggio del paio di gambe, avrebbero potuto apprezzare.